בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. Sono le 21, passate da 3 minuti, Agostino raffreddatissimo, buonasera, questa è la sua prima trasmissione del 2013, quindi di dovere vi devo dare i miei più cordialissimi, carissimi auguri di buon 2013 da parte mia, da parte di Radio Veneto, che già ve l'ha dato anche ieri sera con te, Maurizio, giusto? Esattamente, buonasera ai nostri ascoltatori, sono presente, sì, è già la seconda trasmissione del 2013 per me. Per te sì, per me è la prima. Sì. Allora ancora auguri anche a te, Maurizio. Grazie. Bene? E io prima di presentare la band volevo prendermi un po' di spazio per il sottoscritto, cioè volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in quest'anno 2012, che mi hanno dato un sacco di soddisfazioni e che ringrazio veramente di cuore e con tanto affetto, sperando di essere sempre una gradita persona per voi. E io sono qui, insomma, se avete comunque qualsiasi cosa da chiedermi, da fare, insomma, io sono sempre disponibile, sempre nel nome della musica, ovviamente. Allora, la mia voce, come sentite, è molto ma molto particolare, molto raffreddata, chissà, magari forse sarà ancora più bella, che ne so, Maurizio? Beh, sì, sicuramente, io non metto, cioè, sicuramente sarà più bella, più affascinante, possiamo dire così, con la vecchiaia. Con la vecchiaia, soprattutto con la vecchiaia. Purtroppo anche quest'anno mi tocca cominciare con il nonnetto, che è venuto di nuovo sempre in trasmissione. Ma allora, prima di presentare questa band che ci raggiungono dalla città Bologna, prima di tutto volevo dare i nostri dati, come faccio sempre, come di consueto. Quindi allora, le nostre frequenze 88.700, 94.600 MHz per la zona di Venezia, soprattutto in modulazione di frequenza. Il nostro numero, quello in studio di telefono, ovviamente. Il nostro numero, dicevo, è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda il nostro numero per mandare i vostri SMS, se volete anche fare qualche domanda a questi amici che ci sono venuti a trovare qui da Bologna, dicevo, allora vi ricordo, è il 346 23 20 033. Poi ancora il nostro sito dove ci state ascoltando in streaming, cioè www.bluradioveneto.it, 24 ore su 24 lo potete fare tranquillamente, saremo sempre lì a farvi compagnia. E poi potete anche leggere tutte le varie notizie, le recensioni anche di questa band che si chiama appunto Il Vaso di Pandora. Trovate tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la nostra amata regione, cioè il Veneto, ma anche andiamo al di fuori dei nostri confini. E poi ancora, credo di aver detto tutto, le nostre pagine di Facebook, cioè semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che salutiamo caramente. Detto questo, do il benvenuto, il mio primo benvenuto a questa serata qui dalle 21 alle 22.30 con Blu Time Live, con Il Vaso di Pandora. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Allora sono 5, ma sono 4 della band più il tecnico, possiamo dire così. Allora abbiamo, vabbè, il caro amico Francesco Scaglioni che ha la batteria, ma stasera ti vedo con la chitarra. Sì, portare la batteria qua diventava scomodo. Ah, immagino. Allora, poi c'è Alexis Aguilar al basso. Ciao. Ciao. E poi ancora Simone Pensabene alla chitarra. Ciao a tutti. Ciao. E ci siamo regalati una voce femminile che sta per... come dire, avere un lieto evento, ma magari non lo diciamo per scaramanzia. Allora, si chiama Antonella Farace. Ciao Antonella. Ciao. Ma è una donna rock, quello è importante, assolutamente rock. Parla vicino al microfono, Antonella. Assolutamente sei una donna rock. Sì, sì, sì. Assolutamente, quello è importante. Più rock che donna. Questo non lo so, però sei una donna rock, quello è importante. Benvenuta anche a te. Allora, Maurizio, ti lascio già a te a fare le prime osservazioni, le prime considerazioni su questo disco che si chiama Il Vaso di Pandora, praticamente. Sicosi. Sì, Il Vaso di Pandora è la band, però il disco, me lo dici te come si chiama il disco? Sicosi di una donna curiosa. Perfetto. Nanti, cominciamo dall'inizio, 2002, vi chiamate Pets. Come mai vi chiamate Pets? Perché all'epoca c'era un programma televisivo su MTV con dei pupazzetti un po' particolari e questi pupazzi avevano delle caratteristiche abbastanza particolari caratterialmente, e niente, abbiamo trovato dei riscontri con le nostre personalità e quindi davamo questo nomignolo qui. Poi è stato il primo nome scelto così, battezzato, giusto per, ancora non avevamo un sound, ancora non avevamo nulla, e quindi un nome che suonava carino l'abbiamo scelto così. Qua ho letto studiate sonorità alternative, quindi soprattutto ho letto PJ Harvey, a me interessa molto. Come mai PJ Harvey, sonorità alternative? Come mai sei partita da PJ Harvey, del progetto che poi si è sviluppata. No, non è che sia partita, però avevi un punto di riferimento con più degli altri. No, magari sono direttamente gli altri che ti accostano a vari artisti, è una cosa che viene fatta di solito. Sì, esattamente. Però diciamo, è interessante, ma è stata, ma accostarsi a PJ Harvey è una cosa interessante secondo me. No, assolutamente, però non sono cose volute, nel senso uno fa il suo, poi successivamente chi ti ascolta tende poi ad avvicinarti ad altri artisti. Certo, poi non mi fa mica schifo. No, perché, assolutamente. Cioè, non stiamo dicendo nulla, senza offesa per Nilla Pizzi. Se ne è andato un po' di tempo fa, però senza offesa per Nilla Pizzi, ecco. Esattamente. Quindi, sì, com'è si è sviluppato questo progetto fra te e Francesco praticamente? Niente, noi abbiamo iniziato semplicemente lui batterista, io proprio voce alle prime armi, e eravamo partiti con un'idea di fare più che altro delle cover così, o comunque divertirci. Successivamente diciamo che la cosa non ci è piaciuta da subito, nel senso che il fare cover non era cosa che ci stimolava mentalmente, di conseguenza siamo partiti subito con cose vostre, sì. E poi da lì c'è stato un cambio enorme di elementi, fino ad arrivare poi alla formazione attuale. Formazione attuale, praticamente una formazione assolutamente rock. Un rock, qualcuno ha scritto molto duro, qualcun altro ha scritto molto delicato, soave. Io ho scritto leggermente, con qualche ascendenza prog, non so se sei d'accordo. Sì, in realtà c'è un po' di tutto. C'è dell'ambivalenza, dell'ambiguità e del camaleontismo. Bello, diciamo. Bello questo. Il camaleontismo, cioè, mi piace molto questa definizione. O del bipolarismo, parlando di disturbi. Sì, c'è un po' di tutto. C'è una dualità costante nel nostro lavoro. Alla fine siamo tante teste e di conseguenza i gusti, un pochino di tutti gli elementi, tendono poi a creare questo mix che viene fuori dal... Tante teste che sono arrivate a incidere un album vero e proprio, che non è mica una cosa semplice, assolutamente è molto difficile. È molto difficile, è faticoso, perché incidere un album è faticoso nel senso positivo del termine. Una volta si fa ancora fatica, e vuol dire questo, è positivo far fatica ad incidere un album. Fatica tanta. Esattamente. Ma veramente tanta. Però alla fine ci sono poi i risultati che ti portino o no a qualcosa, nel frattempo comunque ti danno una soddisfazione, e che alla fine poi è quello che vale. Il punto di partenza è quello che vale, esatto. per chi fa musica, o perlomeno per noi, essere poi soddisfatti di quello che riusciamo a partorire. Certamente. Se sentite qualche modifica di microfono è perché stiamo ancora sistemando un po', abbiamo avuto qualche problemino tecnico, ma abbiamo sistemato alla grande. Allora dicevo, per collegarmi al vostro discorso, Maurizio, e a te appunto Antonella, quanto ci avete messo a fare questo disco in pratica? Dall'inizio alla fine? Sì. Lo dico? Tutto da quando sono stati pensati i pezzi, una decina d'anni. Addirittura. No vabbè, diciamo che gli intervalli e i tempi di attesa si sono allungati appunto per cambi di formazione e varie vicissitudini poi degli elementi, che hanno fatto sì che ci volesse poi del tempo per arrivare ad un prodotto maturo abbastanza, e poi con le disponibilità che abbiamo noi non è che anche... Che sia fattibile e imminente. Sia fattibile ed imminente realmente poi la disponibilità sia economica che tecnica, proprio per arrivare ad ottenere un prodotto che sia soddisfacente. Cioè. Ma è stato istinto l'EP del 2010 che ha segnato la strada praticamente. È stato quello che ha dato l'input allo sviluppo. Non sei mica d'accordo, Teta? No, sei d'accordo. Ti stavo dicendo sì. Indicativamente, però parla pure tu che sei la cantante. Ho deciso che parlo solo io stasera, va benissimo. Istinto, però sei la frontman, quindi è stato importante woman. Istinto allora praticamente nel 2010. Diciamo che a quel momento riuscivamo a mettere fuori tre pezzi e non eravamo ancora pronti per fare l'album intero. L'album intero. E quindi siamo partiti da un pezzo che comunque ci prendeva molto, era Istinto. Abbiamo fatto questo mini EP con Istinto, Venere e Raja, tre pezzi così, e abbiamo fatto diciamo una prova per vedere un pochino poi come eravamo in studio, e poi lentamente lentamente abbiamo detto adesso il disco proviamo a farlo. Esattamente. Bene, adesso lo sentiamo allora. Sì, sentiamo qualcosa di questo disco. Io già vi porto i saluti di una nostra carissima amica che ci sta ascoltando, che se siete qui è grazie a lei, e io lo devo fare ovviamente di cuore perché gli voglio un mondo di bene. È una una, come dire, una esponente di un ufficio stampa straordinaria, si chiama Antonella Gucci, lei è sempre presente, sempre staccano vista con il lavoro. E Antonella, volevo regalarti vocalmente qui a questi ragazzi, ma non è stato possibile perché anche tu sei messa come me, se no anche peggio, con la voce, con la salute, quindi insomma il nostro augurio di una pronta guarigione, ma anche il nostro augurio di buon 2013, e poi ancora il mio caro, carissimo, grandissimo grazie per averci segnalato questa band, cioè il Vaso di Pandora. Cosa ci proponete adesso dal disco? Farei ascoltare Fuori, che è il nostro singolo uscito quest'anno, anzi l'anno scorso, che siamo già nel 2013, di cui c'è anche il video vedibile su YouTube. Basta cercare Il Vaso di Pandora, Fuori. Buon ascolto, poi magari ne parliamo. Certo. Blue Time Live. La traccia che apriva questo disco, che ricordiamo si intitola Psicosi di una donna curiosa, loro sono il Vaso di Pandora, vi ricordo, sono quattro ragazzi che vengono da Bologna, hanno fatto questo disco splendido, io l'ho trovato subito bellissimo, d'accordo con me ovviamente anche tu Maurizio, però io, se mi permettete, devo ancora salutare il tecnico, che si chiama? Anno Mattia Senke, mi permetto anche di dire che è stato il cofondatore di tutto il progetto insieme a me, Antonella. Che lui è grande bassista. ex bassista. È lui che sta regolando un po' tutti i suoni. Sì. Benissimo, allora parliamo di Fuori, del singolo, voce potente. Chiaramente un singolo potente deve spaccare, esattamente, ha spaccato, anche se l'album però non spacca tutto quanto, secondo me, secondo appunto il mio punto di vista. Ha delle linee melodiche anche accentuate, ma fatte in una certa maniera. A me interessa la chitarra elettrica tua, come sì. la suoni e perché la suoni in quel momento, in quella situazione, così. Cioè tu vuoi sapere voglio perché sapere, ha sei corde la chitarra? No, voglio sapere il perché hai suonato in quella posizione, cioè con quella grinta, con quel modo di fare. C'era bisogno di cattiveria, c'era bisogno di graffio da parte delle elettriche, qui ho usato varie strumentazioni, poi soprattutto per provare a supportare appunto la voce di Antonella e cercare di fare un lavoro per quanto appunto eterogeneo a livello di pezzi, come dicevi tu prima, sì. però omogeneo a livello quantomeno di suoni ed entità dall'inizio alla fine, abbiamo cercato proprio un equilibrio abbastanza, infatti ci abbiamo messo parecchio tempo anche a trovare l'equilibrio tra i riff, i suoni e le seconde chitarre sostanzialmente che stessero sotto anche dentro a Fuori. E poi Francesco praticamente dà una esplosione di energia in questo pezzo, proprio pulsa ritmicamente, vero Francesco? Certo. Io ci sarei a sottolineare che questo pezzo è nato in spiaggia. Ah, bene, interessante. In Puglia. Perché mi guardi così? Perché oramai è te. È nato in spiaggia in Puglia, sì. Però. No, e poi è diventato. No, beh, ci voleva dalla pulsaggine. Certo, sotto, certo. Poi c'è anche il basso che dà il suo contributo. Ah, non certo, da poco. Chiaramente. No, beh. È un pezzo che. È un pezzo che si chiama Fuori, per niente, si chiama Fuori. Esatto. Chiaramente. Doveva proprio lanciare il disco, praticamente. Esatto, e lanciarci fuori. No, in senso positivo, però. Certo, certo. Assolutamente. Ovviamente. No, vi lanciate anche sul palco come facevano una volta. No, le perché band, di solito no? Sotto al nostro palco non c'è ancora tutta quella ressa. Quella ressa che. C'è la fortuna che ti tengono su. Lì se ti lanci. Slash si lanciava spesso. Suicidio, quindi non. Magari anche un reato, non lo so. Sì, no. No, Slash si lanciava spesso. Chi? Slash c'aveva qualche spettatore in più di noi. Qualcuno. Non tanti. Sì. Vabbè. Io comincio subito a curiosare all'interno di quella che è la vostra produzione, insomma il vostro disco. Il perché di questo nome. Cioè il vaso di Pandora, c'è un motivo particolare? Vi siete ispirati a qualche mitologia del passato? Sì, per forza. No, niente, il nome definitivo, il vaso di Pandora, è arrivato poi nel 2009, nel senso che sì, abbiamo avuto questo nome un pochino provvisorio per un periodo, poi è normale che una volta che arrivi ad avere piena coscienza di quelle che sono le tue sonorità e di quello che è il tuo stile, di quello che vuoi dire, eccetera, secondo me poi è anche giusto, è anche logico che qualcosa che ti descrive come il nome poi deve veramente rappresentare quello che sei, quello che tu ti dai inizialmente è giusto un appellativo che sta lì, invece il fascino che suscita la mitologia in me, ma poi credo anche comunque anche negli altri elementi del gruppo, e il modo di raccontare le storie e le atmosfere un pochino magiche che a volte si vengono a creare soprattutto nei pezzi più lenti, quelli un po' più psichedelici, ha fatto sì che comunque il concetto proprio del vaso di Pandora e di quel buttare fuori, di quella curiosità, di quella violenza della mente umana come dei mali che ci sono nel mondo eccetera, andassero poi a rappresentare, a rinchiudere un pochino, a racchiudere come il contenitore della storia un pochino tutto quello che è il nostro sound, e quindi mi hanno detto ci sta. Ma chi è che l'ha deciso? Io. Ah, ecco. Sei tu che decidi un po' tutto? No, assolutamente. C'è molta democrazia all'interno, insomma. Beh, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Però c'è qualche litigio ogni tanto, sono confessa. È normale. Insomma, certo. Minimo. Hai detto che il pezzo è nato in spiaggia, mi pare, no? Sì. Ma è stato da un accordo di chitarra o come è nato, visto che tu suoni la batteria? Beh, suoni anche la chitarra. Perché c'ho il capotasto, non si riesce a fare. No, però così, fatto... questa cavolata, lui prima ha fregato la chitarra e ha detto no adesso la sistemo io. Ok, ho detto ma hai ragione. Ma tu non era una cavolata allora? No, no, infatti devo dire che diciamo che il mare della Puglia aiuta. Le birre, aiuta. L'ombrellone in quel momento le birre. Aiuta, no, perché avevamo una birra in due quindi aiuta un po' la meno birra, scusa. La birra e quindi aiuta assolutamente, sì. No, è stata Bello, bei ricordi. Bene. Io devo salutare una collega di noi, Maurizio, e cioè Stefania Palladino, che è una speaker di Radio Centro Musica di Napoli. Ci sta ascoltando, vi saluto. Una mia compaesana. Ah, sì, ti saluto anch'io. Sei napoletana tu? Sì. Non lo sapevo. Ecco, quindi ciao Stefania, hai una compaesana che qui tra poco la sentirai anche vocalmente cantare, quindi ti renderai conto insomma anche della sua bravura. Ciao Stefania, un abbraccio, un bacione anche a te e buon ascolto nel proseguo del programma di Agostino. Scusate la voce, ma io sono veramente stasera storditissimo. Maurizio, facciamo ascoltare qualcosa dal vivo adesso? Sì, facciamo sentire qualcosa dal vivo. Che cosa dal vivo? Volete ascoltare, volete fare ancora un altro pezzo da disco? No, facciamo dal vivo un pezzo del disco, che è la seconda traccia, sempre abbastanza mossa, che è Tempo Latitante. Sì, leggermente meno mossa di Fuori, secondo me, però poi questa è una versione decisamente diversa, meno mossa, sì. Chiaramente acustica. Sì. Ok. Un critico ha scritto che questo pezzo, Tempo Latitante, ha un andamento iniziale prog, e dà ragione secondo me, perché tu usi la batteria come fosse uno stantuffo, cioè una specie di ritmica molto molto velocizzata, sì, in questa dimensione che abbiamo fatto stasera, dimensione assolutamente acustica, mentre avete rallentato giustamente il pezzo, ed Antonella ha dato delle linee melodiche che in Tempo Latitante sono un po' nascoste, secondo me. Sì, può essere vero. Leggermente diverso, cioè Tempo Latitante è leggermente diverso. Leggermente, anche l'andamento deve essere terzinato, quindi sullo, certo, shuffle l'ha interpretato chiaramente in maniera più adeguata a quello che è l'arrangiamento acustico. Esattamente, l'arrangiamento acustico, mentre chiaramente segue fuori, fuori è un pezzo potente, tempo latitante, è un pezzo potente ma più ragionato, poteva essere un secondo singolo secondo me. Ah, non è detto che non lo sia. Io l'ho sentito così. Ma siamo anche stati un pochino combattuti inizialmente. Sì, infatti. Sarà più letto tempo latitante o esatto, fuori, vero? Sì, ci abbiamo un po' pensato, ma abbiamo visto che poi fuori, diciamo che riassumeva in una maniera molto più concisa, diciamo, un po' tutto quello che era il succo di questo album, in maniera più veloce, e quindi appunto a causa di quello che dicevi anche tu, cioè il fatto che su tempo latitante magari ci siano quel minimo di ragionamenti in più, si percepisce subito a livello di singolo, abbiamo preferito fare qualche cosa di un po' più come immediato. Arrangiamento, come l'avete creato? Tempo fuori è immediato, spacca decisamente. Ma guarda, tu parli così, ma per me, per quello che mi riguarda, la mia percezione della versione finale che è venuta fuori di Tempo Latitante è molto più punk che il resto. Ah, ho capito. Nel senso che la concezione è rimasta molto di più sul tre accordi potente, l'ottavone, niente di più. E diciamo che probabilmente nel momento in cui è stata pensata, perché è una delle canzoni più vecchie, comunque, sì. Questa sì. Aveva 8 anni, esatto. Forse buoni se li ha anche 9. Probabilmente le intenzioni erano diverse. Comunque, sicuramente il tocco finale è stato un tocco un po' più grintoso anche su questa canzone. Tempo Latitante era nata 10 bpm più lenta. Ah, ho capito. All'epoca, per gli ignoranti, cosa significa bpm? Come velocità, ecco. Velocità del pezzo era 10 bpm, insomma. Abbastanza. E la velocità che avete fatto stasera? No, la velocità stasera è uguale. Semplicemente è solo terzinato. Ho capito. La velocità però è uguale a quella del disco. Mentre invece quando nacque era 10 bpm. Qui abbiamo... Abbiamo il bassista che è anche un pittore lui praticamente. È un grande pittore. Bravissimo. Un bravissimo pittore praticamente. Puoi dire qualcosa anche a te? Avvicinati al microfono. Visto che hai parlato della nascita di Tempo Latitante. Non toccate qua niente perché qui siamo precari. Siamo molto precari. Però visto che Francesco ha parlato dell'origine di Tempo Latitante di 10 anni fa, quindi 10 anni fa è il propulsore. È nata molto molto punk, questo è vero, tre accordi, niente di più. Ed è in fondo uno dei pezzi più... Per me stesso esistono una serie di versioni anche di studio che per me sono molto molto preziosi, molto cari, perché rispecchiano molto un certo lasso di tempo del gruppo che oggi non esiste più, perché è cambiato il backline del gruppo. È uno dei pezzi che mi stanno più a cuore. Ti è rimasto dentro praticamente. Sì. Adesso Anno si commuove, se avete dei fazzoletti telefonateci e mandateci. Io via fax. E come sempre io curioso, come nascono le vostre canzoni? Cioè, psicosi di un uomo curioso, quindi sì. sì. No, a parte fuori che ce l'avete spiegata, ma insomma, normalmente, mediamente, insomma, come nascono? C'è un evento, un qualcosa che vi dà lo sprint per scrivere qualcosa? Cioè, nasce un'idea e la allargate, insomma, come nascono? Cioè, a chi scrive poi anche le canzoni? Dunque, le canzoni le scriviamo tutti assieme. Tutti assieme. Questo è sicuro, perché diciamo, io quando sono entrato ho detto, ragazzi, non so come fate, però quando sono entrato nel gruppo, sono entrato ovviamente con in punta di piedi, perché ho detto, qui devo adeguarmi. Allora, è un ex Shape praticamente. Io sono un ex Shape. Cioè, che band era? Che band era la Shape? Un'altra band rock. Sempre del bolognese? Sempre nel bolognese, che tirava più al Brit. Qua c'è poco Brit, secondo me, nell'album dei Vaso di Pandora. Assolutamente molto poco Brit. Cioè, ripeto, secondo me c'è un po' di prog e questo fa bene alla salute, a mio parere. Ah, sì. Indubbiamente, dimmi. Sono d'accordo. Io poi ascolto molti generi di musica che... aiutano un sacco di cose. Continuavi, allora dici. Io dicevo che quando sono arrivato, che all'inizio è stato il mio momento tipo ok, impariamo a fare i pezzi. Poi dopo, quando è stato il momento di cominciare a fare pezzi nostri, abbiamo cominciato a improvvisare per conoscerci, ci siamo un po' annusati. Bello questo, ed è una bella frase, vi siete un po' annusati. Sì. Molto bello questo. Perché... No, no, no, scusa, non è che è una frase, era vero. Era vero. La cosa bella, la cosa bella è questa. E cominciando un po' a improvvisare, che ci si conosce così tra musicisti, abbiamo è subito uscito. Ecco, incominciato a improvvisare. Quando ho fatto un pezzo, cioè prima di gestire il pezzo vero e proprio, improvvisate, cercate di trovare le contaminazioni tra i diversi elementi, dei diversi momenti del pezzo per poi crearlo definitivamente così? Guarda, in realtà improvvisiamo, poi quando realizziamo che funziona, abbiamo il momento magico che diciamo ok, questa funziona, aspetta, rifacciamola. Ma i pezzi nuovi, li creati, cioè li fate sentire anche al pubblico prima? No, aspetta. Li provate, cioè li provate dal vivo con la gente, questo voglio dire. No, i pezzi nuovi quando sono finiti, proprio conclusi, sì, dopo sì. Cioè, li provate, vedete che chiaro, esperimento. Chiaro, si guarda la risposta. La risposta, esattamente. È importantissimo. Come si usava una volta, praticamente. È importantissimo, perché poi vedi anche... Il nostro bassista, ex bassista della band, Sassa. Afferma di sì, esattamente. Come si faceva una volta, dopo vedi quanto funziona veramente, perché il tuo punto di vista è un tuo punto di vista, invece bisogna vedere anche lì il punto di vista degli altri. Esattamente. È importante. Io direi di farli ascoltare ancora dal vivo. Certamente. Se non sono stanchi, se non siete stanchi. No. Sono venuti qui personale per farci sentire la loro musica, quindi è giusto che ci deliziano le orecchie con il loro sound. Insomma, cosa ci fate ascoltare? Live. Okay. O volete riposarvi e fare un po' di disco? Come volete voi, no, scegliete voi. Per noi è lo stesso. Venere. Facciamo Venere. Live. Venere, dai. Ok, Venere. Dal vivo? Certo. Yes. Oh, benissimo. Mi permetto, Antonella, di farti un complimento. Sentire cantare te, mi sembra di sentire cantare Antonella Ruggero. Vuoi forse per l'assonanza con il nome che è lo stesso? Gliel'ha detto nessuno? Ma bella... è una cosa che mi lusinga allo stesso momento, mi fa paura, nel senso che dici, cavolo. Non ti sto mettendo, nel senso che non dico che lei è più brava di te o che tu sei più brava. Chiama Cesare quello che è di Cesare. È un po' più di esperienza di te, forse. Ecco. Però hai una voce veramente splendida, anche dal vivo. Poi, insomma, veramente vai su incredibilmente alta. Ti ringrazio. Ero anche abbastanza preoccupata perché diciamo che ieri nella prova tutta sta voce non c'era, però va bene lo stesso. Adesso ti sei rilassata. È arrivata la manna dal cielo. Sì. Beh, insomma, vi siete rilassati, anche tu ti sei rilassata, sei più tranquilla. Certo. E quindi adesso... Questo era un pezzo, secondo me, molto folk. È una... io l'ho sentito folk. E mi interessava perché tu giochi col falsetto, e questa è una cosa molto interessante. È difficile. Giocare col falsetto non è una cosa semplice, secondo me, Antonella. Gioco col cambio di registro, in realtà non è proprio un falsetto. Sì, vabbè, non scendiamo poi nei tecnicismi, certo. Perché non so neanche cosa che mi appartengono. Io l'ho poi interpretato come falsetto. È quella è quello il giochino, far credere quello che non è. Comunque sì, è tutta giocata sui cambi di registro, tra una voce di testa e di petto, testa petto, che il più delle volte viene bene, però sono cose un pochino rischiose. Poi io mi vado sempre a buttare in quelle cosine difficili che mi piacciono tanto. È una melodia contorta questa qua, un folk, sì, folk di facciata, ma è amelodico, secondo me, in questo momento il pezzo, in alcuni momenti, sì. È amelodico al 100%, volutamente amelodico. Potresti anche interessare certe cose. Agostino ha citato Antonello Ruggero, io non parlo del punto di vista vocale, di costruzione possiamo arrivare anche a Bjork, che Bjork usa, gioca su queste cose, questa amelodia spesso e volentieri. Guarda, prendo anche questo come veramente come un grande complimento. Io l'ho sentito così, è il focus. Ma ti ringrazio, perché comunque stai facendo paragoni comunque con delle persone che, oltre a usare il loro strumento, che è la voce, usano anche molto la testa. E questa cosa continuo a dire. Bjork lo usa spesso e volentieri, distruggendo nel senso positivo le melodie. La ricostruisce a suo modo, a sua maniera. Mica tutti sono d'accordo con lei, mica tutti i dischi di Bjork sono perfettamente consoni, perfettamente interessanti. Qualcuno è ben lontano dagli interessi, o qualcuno altro dirà è molto interessante. Però dipende dal punto di vista. Però che lei comunque è cosciente del fatto che la sua voce è uno strumento e di conseguenza la usa per sperimentare. Esattamente. E lo utilizza come può essere una chitarra, che poi ha tutti i suoi effetti, o qualsiasi altro strumento, una tastiera, eccetera. Di conseguenza è bello, ben venga distruggere e poi ricostruire. Altrimenti siamo sempre. E questo un pezzo partiva dal folk, ma poi si allargava, chiaramente, secondo me. E poi è troncato immediatamente alla punk, l'avete troncato immediato. È un pezzo punk al limite, alla fine, se lo troncate così. Sì, poi teoricamente questa è la versione acustica, tu dovresti sentire anche quella elettrica. Che... Anzi, vi diciamo dove sei. Fammi il plin plin del... plin plin. Messaggio promozionale: potete ascoltare Venere e tutti gli altri due pezzi dell'EP su www.ilvasodipandorabend.com. Andate all'interno della sezione discografia, ci sono i testi e dei tre pezzi dell'EP, potete ascoltare anche la versione elettrica. I tre pezzi dell'EP, io l'EP non l'ho sentito, ho sentito il nuovo disco chiaramente. Musicalmente era piuttosto potenti, visto che questo era un pezzo potente. L'avete fatto in versione acustica, però secondo me era un pezzo potente. È un pezzo potente. È un pezzo assolutamente potente. Il punk 2 minuti e 4, questo è il punk vero, sì. Questo è il minutaggio, era Ramones permettendo, chiaramente. Certo. Esattamente. Lì possiamo dire che comunque è stato più che altro un problema tecnico in fase di registrazione, nel senso che per inserire questi pezzi qua. Cioè, nel nuovo album, sì. Dici, sì, sì. Sì, sì, non l'avete inseriti. Ma no, perché sarebbero stati da riregistrare. Cioè, I pezzi nuovi sono pezzi nuovi, sono lontani da quel disco. Completamente un setup diverso. Esattamente, una evoluzione. Esatto. Possiamo dire questo. Sì, comunque questi tre qua ci appartengono tanto quanto poi. Certo. Indubbiamente. No, nel senso proprio affettivamente. E quindi è normale che farli ci provoca un piacere immenso, proporli, infatti anche quando andiamo in radio, cose del genere, anche se non appartengono al disco, comunque ci teniamo a... Certo, è giusto. A metterli in mezzo, perché sono sempre... Fanno parte del vostro... Comunque il primo EP, il primo lavoro discografico, alla fine, cioè, non possiamo... Quello che rimane sempre nel esatto, cuore. Esatto, cioè, non lo rinnegheremo mai, non lo dimenticheremo mai. Assolutamente. Pipurra. Va bene. Facciamo un break, sì, facciamo così break, li facciamo esatto. Riposare. Ci propongono Libero Arbitrio. Ci volete dire qualcosa adesso di questo pezzo? O lo diciamo dopo? Ma facciamolo sentire, poi dopo ne parliamo. Va. Ok. Thank you. 21.45, oggi che è giovedì 3 gennaio 2013, siete sempre sintonizzati su Blu Radio Veneto, questa è la vostra emittente preferita in questo preciso istante, le nostre frequenze ve le ricordo ancora, cioè 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, ma vi ricordo anche il nostro numero telefonico con il studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms, se volete mandarli appunto a questa band, vi ricordo il 346 23 20 033. La voce non vi sembrerà vera, ma insomma è quella di Agostino Ospolo, ora assieme a Maurizio Calzavara, ma soprattutto assieme ad Antonella Farace, Simone Pensabeni, Alexis Aguilar e Aguilar o Aguilar? Aguilar. Aguilar, bene, ho letto bene. Francesco Scaglioni, insomma sono il vaso di Pandora. Sì, nella recensione noi abbiamo scritto questo, a proposito di questo pezzo. Il rock non ha mai fatto male a nessuno, siamo tutti d'accordo. E se vogliamo inaspirlo con un dosaggio di punk, ben venga, è libero arbitrio, secondo me c'è un grande dosaggio di punk. Non so se siete d'accordo. E fa bene alla salute sempre, in ogni caso, perché il rock ha sempre fatto bene alla salute. Un grande dosaggio di punk, quindi è un pezzo velocissimo, via. È potente. È potente, dimmi bassista, dai, vai. No, la bassista, devo dirti che soddisfa anche... Pienamente i tuoi requisiti. Esatto. Tu che provieni dal Brit, anche questo non è un pezzo Brit, però. No, assolutamente. Poi ti dico la verità, c'ho delle velleità proprio pesanti rock e mi soddisfano proprio. Ma scivola anche sull'hard in qualche momento, sull'hard rock, non è mica una cosa secondo negativa. Secondo me questo pezzo qui invece ha una particolarità. Dimmi. Che a me è piaciuta, se lo so, di particolare. Quella cosa là, protocanza, esatto, che è nella parte centrale, nello special. Abbiamo fatto un primo approccio, secondo me positivo, anche se microscopico, con una virgola di elettronica. E questa cosa... Chi l'ha avuto l'idea di questo approccio elettronico? No, una virgola di elettronico. Il nostro batterista, Francesco, ridendo, oggi chitarrista stasera. Esatto. E secondo me dà un sapore completamente diverso al pezzo, nel senso che sì, è un pezzo tendenzialmente anche questo punk. Forse non l'ho sentito bene, non sono riuscito a cogliere punk veloce, il momento. Sì. Però c'è una parte che allarga e strappa un attimino dalla regola e questa cosa personalmente a me è piaciuta molto. E quello, quella solo che fai è abbastanza energico. Sì, c'è una parte... C'è una particina a cui niente di fare, niente alla Steve Vai, diciamo, anche perché perché hai citato Steve Vai, ti piace Steve Vai? Diciamo che l'ho ascoltato per un bel periodo, però. Ah. Ma secondo che giudizio dai di Steve Vai, musicista che si contorce fra se stesso oppure no, secondo te? Bah, sicuramente. È tanto bravo, troppo bravo o non è troppo bravo? No, lui è uno dei chitarriero. I chitarriero sono sempre troppo. Sono sempre troppo bravi. Sono sempre troppo bravi. Niente. No, però diciamo che ha fatto anche varie cose orchestrali. tra cui un ultimo concerto del 2007 con un'orchestra inglese che è stato veramente bellissimo, che è su YouTube, che io non ho l'ho visto su YouTube anche io. Ed è un disco, quello lì, molto particolare, però chiaramente dopo 5 minuti, se uno non piace, esatto, questo volevo arrivare a questo qua. Qui Libero dal arbitrio, dal vivo spaccate con Libero dal arbitrio, siete d'accordo? Sì, ci si scatena bestia proprio. Sì, perché alla fine poi il divertimento poi delle band è quello poi di suonare. Di sbattersi, di sudare, di, certo, bisogna sudare suonando, c'è poco da fare. Sì, sì. Una domanda per i chitarristi: ma oggi secondo voi ne escono ancora di chitarino? Di chitarini? Chitarini. Io guarda, faccio finta di fare anche il chitarrista. Sì, sei bassista, ma insomma, siamo lì. Lo ero. Ah, lo eri chitarrista? Sì, poi dopo ho preso in mano il basso e sto facendo il chitarrista che suona il basso. Bene. Io ho dato il mio titolo di chitarrista a Ricky Portera, perché per me è importantissimo il gusto. La tecnica indubbiamente fa la sua parte, però il gusto è quello che fa la differenza. Per me Ricky Portera è stato sempre il top, uno dei top per tutto questo. Bene. Quindi secondo me ce ne sono ancora dei chitarristi. Io se voglio, cioè, vorrei fare un appello ai giovani chitarristi che si mettono attaccati allo strumento, che vanno in vacanza, esatto, e lasciano la chitarra in autostrada. Attaccate le chitarre al guardrail. No, a parte quello, ecco, lo senti sottofondo, stai riportando. Un letto disfatto. Poi me lo, no, dicevo, non puntate, ragazzi, al discorso chitarriero, perché veramente la risposta è sì, ci sono tantissimi ragazzi in gambissima, però il problema è, come diceva lui, la freddezza e il gusto, nel senso che la tecnica da sola non va da nessuna parte, è più proficuo mettere tanto della propria emozione piuttosto che tanto della propria ragione. Sono pienamente d'accordo. Ecco, per esempio, un altro mostro, sì, che non viene reputato un chitarrista perché non se ne accorgono, non lo pubblicizzano come tale. Per me è un altro mostro, per esempio, è Prince. Mette giù 2-3 note fatte proprio. Ah, mamma mia, io, ragazzi, cioè, veramente. Ho i brividi. Beh, già che ci siamo, che stiamo parlando di vari mostri, i vostri gusti musicali, se vi portate. Facciamo due, perché poi il tempo è poi tiranno, quindi fa presto passare. Ma se vi doveste portare due dischi in un'isola famosa, ormai famosa isola deserta, cosa vi portereste? Ognuno c'è il suo. Compreso il nostro bassista, ex bassista della band, no? Parlerà anche lui, chiaramente. Due dischi in un'isola famosa? Sì. A testa, non si può copiare. Non si può copiare. Assolutamente deserta. No. Un'isola deserta. E invece cosa ho detto? Famosa. Vabbè, l'isola dei famosi. No, quella era un'altra cosa. Sì, cosa ti porti? Ai pizza? Sandy Marton? No, non c'entra. No, Sandy Marton. Assolutamente no. Per l'amore. Poi lo butto in mare. E mi porto Acton Baby degli U2, tutta la vita. E Psicosi di una donna curiosa. No, quello no, lo sconosco troppo bene. No, e l'ultimo dei Foo Fighters. Ah, l'ultimo dei Foo Fighters. Wasting Lights. Ok. Secondo me due capolavori assoluti, prego, signora. A me mi hai fregato i Foo Fighters, però a me piace Eco, Silence, Patience and Grace. Vabbè. E poi come altro disco, cioè, ma sì, alla fine, cioè, sorprendiamo un attimo, vado nelle mie radici, una bella raccolta di dance anni 70. So, senti che sotto anche che ti ha messo Prince. Anche, vabbè, Prince, però, ok. No, però direi qualcosina anche che ti tira su, di un pochino più leggero, che non ti faccia troppo ragionare. Quelle belle raccoltone dance anni 80, ecco 80. Qualche nome? Per tirarsi su. E vabbè, Gloria e Stefan, mettiamo su. Dai. Mettiamo su Gloria e Stefan, cerchiamo qualcosa di Gloria e Stefan. Poi? Ma io sono, diciamo, dall'inizio alla fine, quindi uno sarebbe The Decline dei NoFX, che è stato uno dei dischi che... un concept di una quarantina di minuti che ha segnato la mia adolescenza. E poi un disco che mi piace tantissimo, secondo me uno dei più riusciti dischi rock degli ultimi anni in Italia, degli ultimi 10-15 anni in Italia, è Hai paura del buio degli After Hours. Hai ragione, perfettamente. Questo non è Manuel Agnelli, assolutamente. È un'altra cosa. È Manuelito questo. Il nostro bassista, vai. Io sono un po' estremo. Vado, il mio disco preferito Destroy Raise Improve dei Meshuggah, che è un gruppo veramente prog, però pesante. Di un certo peso. E un altro disco che assolutamente mi porterei è Post di Björk. Ah, ecco, abbiamo citato prima, l'abbiamo citata. Sì. A pari merito con Mezzanine dei Massive Attack, perché farei fatica a scegliere, lì proprio piangerei proprio. Bene. E il nostro tecnico? Il nostro bassista, ex bassista del band. Anno. Mattias. Ma per me sarebbe comunque, anche se dico qualcosa di molto scontato, il White Album dei Beatles. Mica tanto scontato. Una cosa in cui è anticipato tantissimo di quello che poi è successo nella storia del rock, in altri campi, artisticamente irraggiungibile fino ad oggi. E poi qualche cosa, diciamo, forse un disco degli ABBA. Come mai gli ABBA? Hanno una mano per scrivere musica pop irraggiungibile fino a... L'ha detto anche Bono, quindi se l'ha detto Bono possiamo... Ma sì, U2 per me, io non sono molto affine a U2. Anche no, l'ha detto Bono a proposito degli ABBA. Ah no, ho capito male, scusa. No, perché ha detto che Fernando è uno dei pezzi... Hai detto bene, hai capito male. Che Fernando è uno dei suoi pezzi preferiti, no? Basta, due. Basta. Sempre il solito, ne vuoi portare di più. Già il White Album è doppio. Ok. Quindi, strano a dirsi, però qualche altro musicista che è venuto qua, scusami Agostino, dopo finisco, ha citato gli ABBA, perché gli ABBA avevano una capacità di creare i pezzi. Gli ABBA sono grandiosi. Strepitosi. Hanno venduto solo 400 milioni di dischi, tanto per cambiare. Solo? Solamente. 370 per l'esattezza. Noi siamo arrivati a 25. In ogni caso, però avevano una capacità di creare, i pezzi che rimanevano in testa. E quello è il problema. Problema positivo, chiaramente. Sono grandi autori. L'altro giorno ero in macchina proprio con Anno. È partita One of Us degli ABBA. Certo. Cioè, il ritornello è veramente... È quello, il ritornello. È proprio una... Perfetto, gli ho detto, ma cavolo, ma questa è la canzone... Il ritornello è perfetto, cioè esattamente quello che lì deve essere, quella canzone deve venire così, e cavolo, quelli l'hanno fatta così. Cioè... c'è poco da fare. Sì, sì. Nonostante tutto, loro sono... Ok. Adesso facciamo ascoltare qualcosa di... Non degli ABBA, però. No, del vaso di Pandora. Sì, il vaso di Pandora. C'è una canzone che io amo molto di questo disco ed è il Reservo, come parlavo qualche minuto fa anche con Antonella. E di chi è stata l'idea di questa canzone? Sono proprio curiosissimo. Questa è una cosa intima tra me e Simone. Aspetta un attimo. Vabbè. Come aspetta un attimo? No, nel senso che molto spesso nascono in saletta i pezzi e li facciamo in quattro, però questa qui è nata in casa, proprio chitarra e voce, tranquilla, tutti e due, perché si sente anche poi l'intimità, proprio la tranquillità proprio nell'atmosfera che si viene... Sì, c'è un'intenzione privata, è stata pubblicizzata perché era troppo bella per tenercela, però non diciamo chissà che cosa, nel senso che era, secondo noi è splendida sotto tutti gli aspetti, quindi è divertente da suonare, è bella e poi è per noi è molto intima, diciamo. E quindi diventa ovviamente molto importante anche per voi. Sì. Ovvio. E lo è importante anche per me perché mi è piaciuta tantissimo. Questo è un pezzo che per me è uno dei più belli del disco, senza nulla togliere gli altri, insomma, ovviamente. Allora l'ascoltiamo e poi magari, se vogliamo, ne parliamo ancora. Il Re Servo. Languito, Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Mi piace sempre tantissimo questo pezzo, che ci, a volte mi piaceva ascoltarlo anche mentre guidavo, perché parte, ti dà sempre l'impressione che sia una canzone che va più veloce, invece poi ti fa guidare serenamente. Mi sbaglio? No, hai perfettamente, no. Hai perfettamente ragione, non so se siete d'accordo voi. Sì, sì, no, assolutamente, è rilassantissima come canzone, secondo me, è proprio una coccola. Ecco, adesso parliamo dell'arrangiamento musicale, della creazione musicale. È un pezzo folk, ma un folk un po' accentuato, secondo me, con un finale quasi leggermente, leggermente pro. E poi ci sono gli archi. Giustamente Francesco mi ha detto, ma come? Gli archi sono veri. Io pensavo certo. Fossero col sintetizzatore. No, non è vero. No. Ah, come mai in senso positivo? Siete riusciti... Citiamo anche chi ha suonato, sì, esatto, gli archi. Esatto. Ah, ricordarsi i nomi. Allora, Baroque Quartet, che c'era... Io mi ricordo Elena Mirandola, non so perché... Secondo violino. Poi c'è Tiziano Guerzoni al contrabbasso, violoncello. Noemi Guerzoni al primo violino, però l'altra la viola. Irene Coratti, alla viola. Ciao Irene. L'idea ciao, bellissima Irene. Di citare gli archi, chi l'ha avuta? Tu, Francesco. Io, sì. No, perché... Come l'hai pensato l'inserimento degli archi nel pezzo? Ma allora, io ho sempre avuto sto pallino di mettere in un pezzo il quartetto. Di archi, e mi è venuto da un gruppo precedente che avevamo lavorato in studio con uno che aveva una chitarra MIDI e creò gli archi in questo modo qua, suonando ogni parte. Quindi mi è venuto in mente finalmente ho potuto avere l'opportunità tramite software di scrivere gli archi in maniera... La partitura. Io poi non ne so niente, sì, di musica classica, ne sai, quindi poco, mi sono... informato. Abbiamo collaborato con Simone. Lui invece di musica classica ascolta molto, quindi mi ha corretto cose che magari non erano giuste, eccetera. Poi ci siamo stampati le partiture, abbiamo trovato questi ragazzi che sono giovanissimi, perché sfruttamento di minori, diciamo. Sì, sfruttamento di minori, perché tipo vanno dai 13 ai 15. Ah, sono giovanissimi. Sì, il violoncellista aveva 13 anni quando abbiamo iniziato. Tutti molto bravi, ecco. No, sono bravi. E niente, quindi sono venuti con le nostre partiture in una giornata, hanno fatto sia quelle di Reservo che di Mare d'Inverno, perché anche Mare d'Inverno abbiamo fatto esattamente anche quelle. E niente, finalmente sono riuscito a coronare questo desiderio. È bello. E quindi niente, così è nato in questo modo qua e siamo riusciti a portarlo in fondo, insomma. È aver inserito, incastonato questo pezzo che è leggermente diverso dagli altri è stata una bella idea e presume a un allargamento in un prossimo futuro, oppure rimane un pezzo così? Un allargamento nei prossimi pezzi che farete. C'è questa intuizione per un disco, questo percorso pseudo folk, oppure no? Cioè, per allargamento tu intendi per mettere sempre archi? Esattamente, proprio quello. Io non escludo mica niente nella vita. Ah, perfetto. Assolutamente. Perché gli archi danno un certo fascino, secondo me. Sì, sì, una penombra, certa classe. Un fascino di penombra. Ma infatti ti dico, la cosa che mi piace di noi è che non è che siamo col paraocchi, quello è importante, non si sa, cioè quello che sarà. Poi magari, ecco, non è che inseriamo il quinto elemento del gruppo, però questo non vuol dire che nel disco non possa essere presenti tastiere, archi, percussioni, che ne so, quello che ci si deve allargare, quello che ci viene in mente, la disponibilità, cioè un'orchestra intera sarebbe proprio, credo, il sogno di tutti e quattro, e lo è sempre stato. Sì. Cioè, è normale che si fa con i mezzi che si hanno. Ma il vaso di Pandora può essere anche questo. Tanti elementi, certo, in un vaso di Pandora. Ci sono tanti riferimenti, tanti momenti, tante idee che vengono poi messe chiaramente su carta o su spartito musicale. Certo. L'importante è questo. E la sofferenza di fare un disco, l'importanza di fare un disco. Perché è bello, cioè un disco si deve fare a priori, cioè lentamente, progressivamente, non buttare tutto subito. Non serve. No, ma infatti, come diceva lei, certo, i pezzi hanno anche 10 anni. È vero, ma è una cosa positiva. Il primo colpo di batteria, io mi ricordo, l'ho dato il 27 dicembre 2010. Il disco fisico in mano l'abbiamo avuto primo giugno 2012. Quindi sono passati 2 anni. Cioè, un po' di tempo, voglio dire, è passato un anno e mezzo quasi intero, perciò... Cioè, tempo ce ne abbiamo messo, ce lo siamo presi, tanto non è che ci correva dietro, no, qualcuno. Nessuno, assolutamente. Beh, cioè, ci siamo fermati e abbiamo ripreso. Certo. Anche perché poi, appunto, i pezzi, avendo una storia, ognuno a sé, erano abbastanza, tra virgolette, eterogenei, per cui abbiamo fatto un bel lavoro anche molto complicato di riarrangiamento di alcune parti per riuscire a riportarli tutti nel nostro nuovo carattere di band e per dare a tutti appunto una possibilità di ascoltare quello che era e quello che è l'inserimento della voce di Antonella. Come l'avete costruito l'arrangiamento per il suo inserimento, oppure Antonella accompagna la vostra musica, o lei è al centro e voi la accompagnate, oppure il contrario? La voce è portante, la voce è portante sempre, anche perché lei chiaramente con la voce che ha non potrebbe essere altrimenti. Diciamo che la costruzione viene vista poi un po' anche di volta in volta in base, cioè, in base al tipo ai momenti, di pezzo, sì. Anche all'impostazione del testo, chiaramente. Sì, non è che poi ci mettiamo proprio, allora la voce fa così e quindi no. Sì, no. Vabbè. Ok, no, sono al pari degli altri strumenti in realtà, e io cerco di trovare il mio spazio, perché poi come è giusto che sia, e poi successivamente, quando si è trovata poi la formula giusta, loro iniziano un po'. L'alchimia è trovata praticamente. Scusa? L'alchimia è trovata. Sì, sì, sì, quando si è trovato proprio il ok, ci siamo arrivati, loro magari iniziano un pochino a smussare gli angoli per venire un pochino dietro a me. Certo, esattamente. Sì. Proprio di alchimia, abbiamo scelto un'altra traccia da disco, mi pare, vero? Forse volevano suonare dal vivo ancora. No, volete suonare dal vivo? Come volete voi. Avete ancora due pezzi dal vivo, giusto? Sì. Io direi di fare una canzone dal vivo, poi magari facciamo una. Ah, va bene, ok, facciamo un pezzo. Cosa dite? Va bene, va bene. Facciamo Mare d'inverno. Ah, Mare d'inverno. Che non ha niente a che vedere con... No, con Ruggeri non c'entra niente. Un pezzo molto importante, secondo me, nel disco. Cosa dici, Francesco? Mancano gli archi. Mancano gli archi, d'accordo. Va bene, eccola qua. Io non so te, Maurizio, ma io ho la pelle d'oca. E non lo dico perché sono qui, ma perché lo penso e lo sento effettivamente. Cioè, la parte finale poi sei stata fantastica, Antonella. Me la fai ancora 30 secondi quando vai su, che ti allontani a 2,5 metri? Quando dico, urlo come un una satanata, sei, sicuro? Sì, sì, sì, sì. Ma... ma com'è? È pazzesco, è pazzesco. Sì, già il riverbero fa il suo. Anche bravissima. Prima ci ho preso con la allora, qua nel backstage siamo live. È tutto live, assolutamente. Questo è un pezzo molto bello. È una ballata. Sì, no. Secondo me, io l'ho definita una suite. Non so se siete d'accordo, una mini suite, sì, per me. Decisamente, una mini suite. Assolutamente una mini suite, soprattutto nel finale. Molto strano, proprio lento. La parte finale degli archi l'ha scritta Simone. Quelli. Complimenti a Simone. Secondo me è una genialata di bellissimo, prima. È bellissimo. E qui c'è, abbiamo scritto sempre la recensione, c'è il passaggio in un batter di ciglia dal rock al prog. Immediatamente. Continuamente. È una scatola che si apre, si chiude, si apre, si chiude. Quindi una suite, assolutamente una suite. Una mini suite, come si usava un po' di anni fa. Le grandi band finivano sempre con una mini suite, dal vivo soprattutto. Parlo di Grateful Dead che andavano avanti sei ore di solo? Mini suite. Sei ore di mini suite. In ogni caso, un pezzo molto bello, molto pesante dal punto di vista compositivo, secondo me. Adesso, dal punto di vista compositivo, i due compositori qua, Simone e Francesco, come è stato? È stato pesante compositivamente parlando? Allora, ha partecipato anche Anno. Siamo onesti, ha partecipato Anno. Anno, ha partecipato Anno e basta. Sì, no, fondamentalmente viene dalla sua testolina. Adesso la sua testolina parla. Niente, in fondo ti tocca. Dobbiamo anche, c'è un duo. L'ex chitarrista Mirko, certo. Massarelli e me, che stiamo ancora lavorando insieme in un altro progetto. E quando abbiamo scritto questo pezzo, c'è l'intenzione, l'idea del mare d'inverno, cioè stare sulla costa e vedere il mare d'inverno e quello che succede, il movimento, anche magari la melanconia dell'inverno che uno porta dentro, cioè almeno è così importante in certi momenti che bisogna scriverci un pezzo. Sembra giusto. C'è chi lo scrive in spiaggia d'estate fuori, esatto. E poi lui è più nordico, come è molto Brianino, scrive, quello che ha detto. Ha detto una cosa molto alla Brianino, secondo me. Un piccolo Brian. Molto alla Brianino. No, comunque diciamo che dall'intenzione iniziale, che anche questo è uno dei pezzi abbastanza datati, un po' più vecchi. Ci siamo qui veramente spostati molto, nel senso che abbiamo lavorato tantissimo con la nuova formazione per riprendere il concetto iniziale e rielaborarlo. Brava. E per poter fare appunto qualche cosa di tecnicamente che diciamo energizzasse ancora di più questo input iniziale che avete dato. Sì, questa composizione che già in sé era abbastanza frastagliata, quindi era bello esaltarla un po' di più con appunto gli archi, con varie parti di chitarra, con delle parti di voce corale che sono state aggiunte dopo ad Antonella. C'è stato fatto tutto un lavoro complessivo di tutti quanti, da tanti anni fa fino all'ultimo momento di registrazione, di mixaggio, veramente diciamo che è quella su cui abbiamo lavorato tanto. Molto. Sì. Esattamente. Beh, si sente, cioè, già inserirlo come ultimo pezzo del disco è significativo. Secondo me, possiamo dire, a proposito del vaso di Pandora, ci può essere un proseguo, una strada aperta in questo, secondo me. Non lo so. Spero ben che ci sia. Musicalmente parlando, certo. È una strada aperta. Questo indica una strada da percorrere, da sviluppare, da ampliare. Però questi sono i momenti, gli input. Anche se il pezzo è antico, non è nuovo, di un po' di tempo fa, però è stato rimesso a posto. Sono stati presi gli input più interessanti e allargandoli. Certo. È un lavoro fatto bene, secondo me, di un certo peso. È un lavoro vostro, assolutamente originale, quello importante. Certo. Io volevo sapere come mai la vostra così decisione di cantare in italiano il rock. Di solito viene molto molto più semplice, molto più facile cantarlo in inglese. Invece voi vi siete diversificati dal fatto che appunto lo cantate in italiano, lo cantate splendidamente. Come mai questa scelta? Noi all'epoca partimmo con l'inglese, però diciamo che siamo in Italia e ci piace anche che poi la gente capisca quello che viene scritto, perché altrimenti sarebbe, cioè, perlomeno io dico che bisogna concepire il pezzo, la canzone come opera in sé completa. Totale. Quindi se uno si affida solo all'orecchio, a sentire solo, diciamo, istintivamente quello che è la musica, quello che può essere la voce, eccetera, eccetera, gli manca poi il senso della cosa. Perché io sto facendo quella parte più malinconica? Perché sto facendo quella parte più aggressiva? Cosa sto raccontando? E non è che siano tutti poliglotti. Certo. Di conseguenza, e l'italiano è una lingua bella, difficile, difficile da usare nella musica, però ci sono tante parole che sono musicali e che suonano bene. E dico, quindi ok, è una fatica in più essere credibili, anche se, cioè, non ci nascondiamo dietro un dito, si fa più fatica con l'italiano, però poi la soddisfazione è doppia, e soprattutto chi ti ascolta non ti sente, basta. Sì, certo, è vero, c'è la differenza. Hai fatto un'analisi ben precisa, che mi fa piacere che tu la pensi in questa maniera, penso anche ai tuoi colleghi, insomma. Facciamo ascoltare la canzone, come dire, in mezzo al disco, cioè proprio il punto più alto forse del disco, con Pandora. Certo. Come mai questa canzone? La title track, o quasi, la title track dell'album, ecco, non del disco, chiaramente. E Pandora poi è la canzone che ha fatto sì anche che poi si scegliesse proprio il vaso di Pandora come nome del gruppo. È per quello che ti dicevo, il nome è nato successivamente e a rigor di logica ha senso così proprio il tutto, perché questa è un pezzo, diciamo, capostipite della nostra filosofia. Adesso poi sto diventando un pochino troppo seria, figurati. Però Pandora racchiude vari elementi di quello che a noi piace fare, sentire, e racconta bene anche quello che sta nelle nostre teste, e niente, ci piace, è bella, che devo dire, a me piace. Quindi Psicosi di una donna curiosa è questo, praticamente. Assolutamente. Pandora era una donna curiosa. Certo, assolutamente curiosa. E la curiosità ti fa tirar fuori le tue psicosi. Chiaro. Internamente, parlando interiormente, non fisicamente, lei tirava fuori dal vaso i mali, quello che veniva fuori, ma nella mente umana ce n'è di male, anche tanto quanto di bene, però ce n'è da buttare fuori, di depravazioni e cose varie. Questo riff di chitarra iniziale di chi è? Questo riff era già un riff esistente, l'abbiamo, quando sono arrivato io nel 2009, e l'ho ripreso perché secondo me è molto bello, l'abbiamo rivisto un attimino anche qui, però diciamo che l'idea è quella originale, sempre dei pezzi che esistevano già, diciamo, quando sono entrato io nella band. Cioè, l'ascoltiamo. We'll be right back. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Maurizio. Eh sì, purtroppo siamo... Bella come, come le altre canzoni che questa Pandora. Molto bella, diciamo, sono quasi in direttura ma non qua, non proprio, abbiamo qua ancora qualche minuto. Sì, è un pezzo molto bello, molto significativo. Per niente la traccia numero 5 è il centro dell'universo del disco, come giustamente diceva Antonella, però è il cardine del disco, c'è poco a fare. Pandora è proprio il cardine, l'evoluzione. Poi lentamente le cose sono sviluppate e si svilupperanno ancora. Ci sono... sperare. Assolutamente sì, chiaramente. Poi la voce di Antonella trascina, questo pezzo è proprio, trascina gli altri secondo me, trascina gli strumentisti, trascina gli strumenti, trascina la musica. Cosa dice Antonella? È sofferto. È molto sofferto, è molto sofferto. E quello è bello perché è molto sofferto musicalmente parlando. Abbiamo ancora qualche istante prima di salutarci, che poi ci saluteranno con l'ultima canzone, che si chiama tra l'altro l'ultima canzone... Massacri per diletto, bello sei. Abbiamo fatto la voce che stereo. Inedita per noi, assolutamente. Sì. Allora, chi è che ci dà i vostri, come dire, contatti, i vostri dati? Te li do io. Che allora su Facebook ci trovate come Il Vaso di Pandora Bologna, se no il nostro sito www.ilvasodipandoraband.com. E lì potete trovare comunque i link a qualsiasi cosa. Su YouTube c'è il nostro canale YouTube del Vaso di Pandora, lo trovate direttamente linkato su Facebook e potete vedere lì anche il nostro video del singolo fuori. E poi non so, gli indirizzi di casa non li diamo, i numeri di telefono neanche, siamo già a posto così. Dove si può trovare il vostro disco? Ah giusto, ecco, bravo, vedi che... Il nostro disco in questo momento è scaricabile su iTunes e tutte le piattaforme web più importanti, e fisicamente, per chi volesse vedere queste meravigliose foto, queste meravigliose grafiche di Francesca Banchelli e le foto invece di Marika Puicker, potete andare a Bologna al Disco d'Oro, che è un negozio storico, uno di pochi storici negozi che sono rimasti, esattamente, oppure all'Elastico, che è uno spazio artistico in centro. Comunque trovate sempre tutte le informazioni riguardo anche questi indirizzi all'interno del nostro sito. Prossimi concerti? Ne avete in programmazione? Dunque, diciamo che ora pare di no. Pare di no. Ufficialmente, però abbiamo, forse ci stiamo organizzando per fare uno showcase presso, vabbè, non diciamo niente, va, che non posso... per fare uno showcase, per uno showcase, una presentazione, vediamo un po', vi faremo sapere. Bene, bene. Un'ultima domanda, poi ci salutiamo. Alla fin fine, poi Antonella vi ha sparato dal disco qui nella copertina, avete gli occhi bendati, lei con la pistola in mano, come mai? No, gli ho sparato, però ho mancato la mira perché ce li ho ancora qua. Infatti, ci ho provato di spalle, ma non sono riuscita. Va bene, grazie ragazzi di essere venuti qui questa sera. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Io vi strappo già una promessa: prossimo disco, prossima partecipazione che è Brulla di Veneto, ci venite? Certo che ci veniamo, ovviamente. Di corsa. No, facciamo in macchina. Va. Facciamo in macchina. Un grazie ad Antonella Gucci, ovviamente, per la collaborazione e per questa band. Noi diamo l'appuntamento a domani sera alle ore 21 con una violinista, sì. Maurizio. Sì, esattamente, una violinista. Chiara Giacobbe. Esattamente, presenterà il suo album, di cui quasi tutto strumentale, con una o due parti cantate. È un esperimento, di solito non ospitiamo moltissimi violinisti, è successo qualche volta, ma pochi ma buoni. Esattamente. Sempre grazie anche ad Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, che ha coordinato tutte le band. Bene, allora ci saremo anche domani sera, sempre io, sempre Maurizio, e quindi buon proseguimento ad ascolto i programmi che continuano con l'hard rock di Renato Ferro tra pochi istanti. Prima però ci salutiamo con l'ultima canzone del Vaso di Pandora, che si chiama Massacri per diletto. Ciao ragazzi. Hai succinto gli abiti e ti sei disperso tra la folla, sei difendere l'inganno vuoi, purificare il danno dai, risposte a mezzo busto e vuoi capire se è concesso per fingerti affranto un po'. Sai nasconderti per sorprenderci, dissanguarci e poi Galli nei